questi giorni e non dormo mai. Le mie ali battono, che mondo orribile su questo pianeta. È Dio che mi ha mandata. Blocco le mie ali e guardo cosa c'è in TV. Devo furti le rapine.